Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Rosario Priore, innanzitutto, secondo lei, è una svolta aver identificato il telefonista Mario? Sì, lo è. Ci sono state novità varie nel corso del tempo, a cui però non si è dato il dovuto peso. Queste invece ultime mi sembrano di grande rilievo. Capelli lunghi, neri e lisci, jeans, camicia bianca e scarpe da ginnastica. Al momento della scomparsa, Emanuela Orlandi era descritta così sui manifesti attaccati a Roma e in tutto il paese. 26 anni dopo, quel 22 giugno 1983, la svolta della Procura di Roma è dare un nome a Mario, il telefonista. Un volto e un indagato da cui ripartire per fare luce su uno dei casi più misteriosi, con la vita di una quindicenne finita nel groviglio di ricatti e tensioni internazionali, con al centro il Vaticano. Così l'inchiesta sulla sua scomparsa negli anni Ottanta si intersecò in continuazione con quella sull'attentato a Giovanni Paolo II. Per anni il giudice Rosario Priore indagò su quegli spari contro il Papa polacco, seguendo quindi molto da vicino anche il caso Orlandi, e ora indica il primo punto fermo, la banda della Magliana. Mi sembra che sia la pista buona, cioè si è imboccata la strada, credo migliore, che a dir la verità è stata ostacolata per diversi anni. Ostacolata da cosa? Nel senso che si sono fatti diversi tentativi per accreditare diverse piste, non questa nostrana, chiamiamola interna, con accreditare piste straniere, ad esempio quella turca, quella bulgara, quella che ci ha portato nei posti più disparati del pianeta, perché noi abbiamo inseguito questa ragazza in Belgio, in Lussemburgo, in Turchia, addirittura in Colombia. Quindi sono state poste in essere delle manovre depistanti, io non credo sempre colpevolmente, ma a volte per farci allontanare dalla verità. Le piste straniere sono ritornate in tutte le vicende più oscure e più complesse della storia italiana, soprattutto tra gli anni 70 e 80, e le più diverse. In ogni vicenda a un certo punto è comparsa una pista straniera. Da Moro alla strage di Bologna, era una tattica di depistaggio che era in uso nell'intelligence dell'epoca? Sì, però non è sempre la pista straniera che viene accreditata per impedire che vengano scoperte quelle nostrane. A volte può capitare anche il contrario, che si dica che la matrice è interna, è nostra, di qualche piccola organizzazione, e con questo si tende a praticamente a nascondere le vere matrici che possono essere anche in stati stranieri, in organizzazioni internazionali. Il fine è sempre quello di depistare. E questo è capitato anche nell'indagine complessissima che lei ebbe a seguire sull'attentato al Papa. Come dicevamo, le due vicende, anche per la vicinanza cronologica e degli ambienti soprattutto, si intersecarono all'epoca e ancora oggi, appunto. Ancora oggi, sì. Il Vaticano nel caso Orlandi ha un ruolo centrale. Ce lo vuole ricordare? Il ruolo del Vaticano in questo caso è ovviamente, come oggi si dice, quello della vittima, quella della, diciamo, della entità che è stata sottoposta a pressioni e a ricatti. In un certo senso noi potremmo annoverarlo tra le vittime di questi reati gravissimi. Però il Vaticano è emerso proprio perché in quel periodo c'era la necessità di supportare la causa polacca, c'era la necessità di avere ingenti mezzi, e questo era emerso anche in tante altre indagini, cioè che ci furono delle canalizzazioni di mezzi finanziari nella Banca di Calvi, probabilmente anche oltre la Banca di Calvi. Per esempio ricordo sempre la vicenda di Luigi Scricciolo, quel sindacalista che fu, che fu imputato, accusato di essere una spia al servizio dei servizi bulgari, che si adoperava anche per Solidarnosc, si adoperava presso gli omologhi americani. I sindacati americani versarono moltissimi denaro appunto alla causa di Solidarnosc. C'era un elemento però ancora più preciso che riguardava la cittadinanza. Questa ragazza stranamente aveva assunto la cittadinanza vaticana soltanto 6 mesi prima dei fatti. Prima aveva la nostra cittadinanza e poi forse un qualcosa che era sfuggito anche agli inquirenti scorsi, e cioè che in quel frangente erano state prese d'occhio non solo Emanuela Orlandi, ma altre due ragazze, altre due cittadine vaticane. Quindi, a parer mio, emergeva un progetto proprio di colpire la città del Vaticano, il Vaticano e i suoi abitanti. Un progetto, secondo lei, che aveva quale regia? Allo Stato sembra quella della banda della Magliana, ma potrebbe avere sicuramente dei registi più in alto. Aveva l'intento di fare pressione su quelli che erano stati beneficiari di questi versamenti, che ovviamente la banda della Magliana non aveva fatto a titolo di donazione, ma anche a titolo di prestito usurario. Ecco, sappiamo che la specificità della banda della Magliana era, per loro stessa definizione, che erano diventate una sorta di agenzia del crimine. Prestavano servigi a chi li richiedesse. Chi li rimunerava largamente. Quindi in questo quadro anche di politica internazionale viene subito da pensare che potesse esserci chi ostacolasse l'appoggio che il Vaticano e il Papa polacco stesse dando anche a tutti i movimenti che portarono poi a Solidarnosc e portarono in progressione all'apertura anche del blocco sovietico. Questa può essere una chiave di lettura. In effetti potevano esserci delle forze che volevano ostacolare questa forza dirompente del sistema dell'Europa orientale. Secondo lei il fatto che adesso ci sia stata questa svolta è dovuto anche al fatto che la maggior parte forse dei protagonisti dell'epoca siano morti, a cominciare da Marcinkus? Beh, questo è un dato di fatto, cioè se le persone che stanno parlando non hanno parlato per anni è di sicuro perché temevano qualche forte ritorsione. Coloro che potevano mettere in atto queste ritorsioni, queste vendette, sono quasi tutti morti, comunque se non lo sono hanno perso il loro potere. Tra le persone che stanno parlando, come ricordavamo, c'è soprattutto questa super testimone Sabrina Minardi, ex compagna del boss della Magliana, sì. De Pedis, appunto, la quale disse che Emanuela Orlandi fu rapita per ordine di Marcinkus. La componente della banda della Magliana e anche l'ombra di un ruolo della Santa Sede, non solo come vittima di un possibile ricatto, ma anche della presenza di personaggi al suo interno che potessero averne un ruolo anche più diretto, era accennato in qualche modo oppure no? Ma questo appariva perché anche nella mia inchiesta ci fu un collaboratore di giustizia di origine siciliana che ci parlò del denaro che affluiva a Roma e ci parlò anche delle entità che manipolavano questo denaro, ma questo era emerso anche in inchieste della Procura di Milano, anche in inchieste romane. Io ricordo quanto ebbe a dire una quindicina di anni fa Fabiola Moretti, Antonio Mancini, che era uno dei personaggi di maggior rilievo della banda, soprannominato l'Accattone. Ricordo anche quello che disse Speranza, che era considerato un pentito di grosso calibro, poi fu definito pazzo, e andrebbero riprese e riportate alla luce. Io sono sicuro che sono state tenute in considerazione dagli odierni inquirenti, che in effetti hanno avuto il grande merito di liberarsi da tutte quelle sovrapposizioni che nascevano pure da dichiarazioni di Mehmet Ali Akçal, il tentatore al Papa, certo, che sosteneva e ha sostenuto fino alla fine, tra le tante ritrattazioni e ritrattazioni delle ritrattazioni, sosteneva che l'operazione Orlandi fosse stata messa in essere per la sua liberazione e che fosse stata attuata dai lupi grigi. Quindi in effetti c'era questa sovrapposizione che probabilmente impediva di vedere quello che c'era dietro. C'era anche il comportamento della vecchia Stasi. Io non sono mai riuscito a far luce su questo, cioè sui comunicati che venivano emessi a nome del Turkish, del fronte Turkish, che secondo alcuni della Stasi sarebbero stati emessi proprio dalla centrale della Germania orientale per intorbidare le acque. Storielle. Storiacce. Allora, ha fatto, non loro lo sanno, me ne sono andata perché si fa, perché se ne va a un certo punto, non sta bene a casa sua. Fanno, ma per tutta una vita piatta, una vita troppo comune, però loro lo sanno, gli ho detto che me ne andavo. Mario, il telefonista. Ora questa voce ha un nome e un volto ed è quello del nuovo indagato nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la ragazza sparita nel giugno dell'83. Da qui riparte l'indagine della Procura di Roma, che conta anche sulle dichiarazioni della super testimone Sabrina Minardi. Era la compagna di Renatino, il boss della Maiana, Renato De Pedis, le cui spoglie nel 90 trovarono accoglienza nella Basilica di Santa Pollinare a Roma. Fu un ricatto al Vaticano, ha già detto nella prima parte Rosario Priore, il giudice che per anni ha indagato sull'attentato al Papa Giovanni Paolo II, percorrendo le strade dei tanti punti di contatto con la vicenda Orlandi, strade che lo condussero anche fino a Berlino. Noi ricordiamo soltanto l'intromissione del monsignore americano, di quel sedicente monsignore che parlava con accento statunitense, che fu definito una persona che aveva fatto studi di teologia, di cultura anglosassone. Ci sono stati dei personaggi inquietanti, ma per anni, non giorno solo. Venne fuori da note riservate anche l'ipotesi che il famoso americano fosse Monsignor Marcinkus. Lei la considera attendibile? Ma non credo, perché questo era uno studio fatto dai servizi sulla base della persona che parlava, che faceva queste telefonate. Non lo credo per la semplice ragione che il livello, diciamo, di intelligenza e, diciamo, anche di astuzia del monsignor, ma che abbiamo menzionato, non credo che fosse capace di far telefonate in proprio. C'era qualcuno che forse voleva far credere di essere monsignor Marcinkus. Potrebbe essere stato qualcuno in grado di guadagnare la fiducia anche di coloro che avrebbero studiato quella voce, però direttamente non lo credo, si sarebbe esposto a un pericolo enorme, perché gli studi sulle voci sono abbastanza sofisticati, abbastanza raffinati, lo erano già al tempo. Io ricordo che noi abbiamo lavorato negli Stati Uniti proprio sulle voci dei sequestratori dell'onorevole Moro, già si facevano perizie foniche. A proposito di Stasi, lei andò a bussare alla porta della Gauch Organisation e poi... Fu il primo a chiedere gli atti, di vedere degli atti della Stasi. Riuscì ad ottenere diverse carte che furono poi ritenute essenziali anche dalla commissione Mitrochi, le aveva chieste anch'essa la commissione Germania Federale e le aveva ricevute in un certo senso bianchettate, non tradotte. Io ce le avevo integre, erano tradotte ufficialmente. Cosa contenevano queste carte? C'erano cose che riguardavano l'attentato al Papa, c'erano elenchi di terroristi di sinistra e di destra in grado anche di compiere azioni omicidiarie. C'era un materiale molto interessante, perché in Occidente non si era mai visto. Dimostrava in un certo senso anche la capacità di muovere le opinioni pubbliche, perché poi a questo servizio era stato richiesto dai bulgari di organizzare una diga contro la propaganda sul caso Antonov, dannosa per la Bulgaria. In un certo senso la Stasi riuscì a mettere in piedi campagne di stampa, alcune cose ci dissero che erano rimaste bruciate negli incendi che scoppiati durante, diciamo, la caduta del muro, e comunque erano carte di un grande interesse, al punto tale che io subii un furto del mio bagaglio mentre io stavo per lasciare Berlino, della mia valigia dove erano contenute le carte. Questa valigia fu ritrovata dopo diversi mesi all'interno di un ufficio postale, c'era tutte le carte che io avevo, e questa è la stranezza, e mancavano soltanto degli effetti personali. I ladri vollero fare dell'ironia. Lei incontrò anche Marcus Wolf, colui che fu ribattezzato l'uomo senza volto della Stasi. Perché lo incontrò e che cosa le raccontò sia sulla vicenda del Papa che sul caso Orlandi? Marcus Wolf, io avevo chiesto di interrogarlo, feci una rogatoria alle autorità federali, però lei in quel momento era sotto processo e quindi poteva avvalersi della facoltà di non rispondere. Venuto a Roma ho avuto di sentirlo e di porgli delle domande di un certo interesse, però In effetti, come capita spesso con i grandi capi dei servizi, sono di un'abilità tale che riescono ad eludere le parti essenziali delle domande. Sostanza disse che la Germania orientale, lui parlava per la Germania orientale, non c'entrava nulla né con l'attentato al Papa né con il sequestro della Orlandi. Io ne ricavai l'impressione che non ci fossero delle responsabilità dirette della vecchia DDR, ma che però il servizio di questa Germania Est sapesse molte più cose. Secondo lei, se la ragione doveva essere quella di un ricatto al Vaticano, perché poi uccidere una ragazza, una quindicenne? È stata la stessa Minardi a dire che Emanuela Orlandi sarebbe stata uccisa. Io però preferirei usare quel termine che già ho usato, cioè un mezzo di pressione. Non userei il termine ricatto, che ha delle sfumature un po' diverse. Per quanto riguarda l'uccisione, è brutto doverlo dirlo, estremamente crudamente realistico, ma la ragazza aveva sicuramente visto, sentito, intuito anche tante di quelle cose che un'organizzazione efferata come la Banda della Magliana forse non ci ha pensato due volte alla sua eliminazione. Ricordiamo quello che ci dice la Minardi di aver sentito sulla bocca di De Pedis. Dice: noi dobbiamo estirpare qualsiasi prova, qualsiasi cosa che possa portare a noi di questa vicenda. Quindi c'era una decisione precisa di eliminare questa povera ragazza. Ma questo sarebbe avvenuto se così è avvenuto, perché oltretutto dobbiamo ricordarlo, realisticamente purtroppo sembra essere così e ci sono le dichiarazioni della Minardi, però non è stato mai ritrovato il corpo di Emanuela Orlandi. Ma secondo lei, se appunto così è stato, la decisione di uccidere Emanuela sarebbe maturata dopo un braccio di ferro, perché quelle pressioni fatte non avevano sortito alcun tipo di effetto? A me non risulta, ma credo che non risulti allo stato attuale nemmeno all'inchiesta, come si siano svolti i fatti in questo periodo, che non fu breve perché durò diverse settimane, se non qualche mese, e non so i dettagli, assolutamente non so che, ma non so nemmeno che esito abbia sortito questa forma di pressione. C'è da dire che il tutto non è durato un giorno solo, cioè c'è stato un periodo proprio di effettivo sequestro, che è durato un intervallo di tempo compreso tra le settimane e qualche mese. Questo bisognerebbe approfondire tra il momento, come si dice in termine tecnico, dell'apprensione dell'ostaggio sino alla sua eliminazione. Quindi eventuali spostamenti, eventuali fatti successi nel frattempo. Ma secondo lei, oltre che da questa super testimone, ci possono essere ancora archivi o fonti che potrebbero essere in grado di aggiungere dettagli? Adesso, con il passare del tempo, sta cadendo il segreto, si stanno aprendo anche archivi internazionali, inglesi o americani, o ancora appunto dell'ex blocco sovietico. Lei dov'è che andrebbe a cercare tra le carte delle novità? Questi fatti non lasciano mai delle tracce scritte. Sicuramente possono invece esserci stati degli studi, dei rilievi, dei commenti fatti da paesi a noi vicini sulla vicenda, e quindi qualche cosa che di maggiore consistenza. Allo Stato noi dobbiamo lavorare essenzialmente sulla memoria degli esseri umani. Io penso che qualche cosa, forse degli studi, dei rapporti. Tanti servizi avevano radici all'interno della Città del Vaticano. Sicuramente alcuni di questi hanno fatto dei commenti e li hanno spediti ai loro governi.